America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The companies we manage are in a healthy situation, but we also manage some investment funds, mostly Mexican paper. La voce che avete sentito è quella dell'uomo più ricco del mondo, Carlos Slim. Abbiamo avuto ieri la classifica di Forbes Magazine, questa puntuale classifica degli uomini più ricchi del mondo, e Carlos Slim Helú, uomo d'affari messicano, ha messo insieme l'anno scorso un valore patrimoniale di 74 miliardi di dollari. È un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, opera un po' in tutto il Sud America. Al secondo posto Bill Gates, 56 miliardi di dollari, ha dovuto rinunciare a una parte dei suoi beni perché li ha destinati in beneficenza. Warren Buffett, 50 miliardi di dollari, e ci sono alcuni europei. Bernard Arnault, il francese, LVMH, il lusso, la moda. Al settimo posto uno spagnolo, 31 miliardi di dollari, Amancio Ortega, il brand e Zara, di nuovo moda, o meglio distribuzione di abbigliamento economico. Dunque prende forma questa nuova classifica di Forbes. Saremo in tempi di crisi, però insomma questi miliardari crescono, il numero dei miliardari cresce, perché rispetto al 2010, quando ce n'erano solo, tra virgolette, 1011, beh, quest'anno ce ne sono 1210. Ma la cosa che mi ha colpito è che il volume complessivo patrimoniale di questi 1210 individui nel mondo è pari a 4.500 miliardi di dollari, una cifra ovviamente impressionante, ma per darvi un'idea dell'importanza di questa cifra, è più grande dell'intero prodotto nazionale lordo della Germania. Poi c'è, diciamo così, anche uno spaccato geografico di questa situazione, uno spaccato piuttosto interessante, perché gli Stati Uniti restano al primo posto come numero di miliardari, ce ne sono 413 rispetto ai 403 dell'anno scorso. In Europa siamo un po' meno, però il numero è salito, perché da 248 dell'anno scorso sono passati a 300, quindi c'è stato un aumento di 52 nuovi miliardari, quindi l'Europa tutto sommato ha fatto bene, è a 1.300 miliardi di dollari contro i 1.500 degli Stati Uniti. E l'Asia? Beh, l'Asia ovviamente avanza a velocità sfrenata, perché è passata dai 234 dell'anno scorso ai 332 di quest'anno. Quindi l'Asia, Cina, India, le grandi economie industriali asiatiche, che sono poi rappresentate dai miliardari che controllano i complessi industriali, hanno superato i miliardari europei. In tutto questo viene fatto di chiedersi che cosa fanno gli italiani. Siamo anche il paese che ha le regioni più ricche d'Europa, abbiamo come ricchezza delle famiglie 8 volte il nostro prodotto nazionale annuale, abbiamo il più alto numero di automobili. Beh, l'Italia è un po' in declino. Pensate, bastava risalire al 2000 per trovare il cavaliere, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al 14° posto nella classifica. Credo che sia stata la posizione più elevata in cui si sia trovato un italiano. Vi dicevo, stiamo parlando del 2000, aveva 12,8 miliardi di dollari. Ebbene, quest'anno il cavaliere è caduto addirittura al 118° posto con 7,8 miliardi di dollari, quindi molto meno in termini di valutazione patrimoniale di quello che aveva una decina d'anni fa. Il primo italiano a difendere la bandiera è invece Michele Ferrero, che è al 32° posto. Ferrero, la grande industria di dolciumi alimentari, e il signor Ferrero con i figli, con la famiglia, è valutato 18 miliardi di dollari. Gli Agnelli, che erano rappresentati da Gianni Agnelli, dall'avvocato, quando era ancora in vita, oggi la famiglia Agnelli non compare in questa classifica. però è entrato in classifica Diego Della Valle, che è al 938esimo posto, con un patrimonio stimato in 1,3 miliardi di dollari. Ma arriviamo un po' a un'analisi, perché in questa situazione, secondo me, emergono degli elementi interessanti. Per esempio, la famiglia Bulgari ha fatto bingo, ovviamente, con la vendita della LVMH. L'altro giorno ha incassato complessivamente circa 2 miliardi di dollari. Gli azionisti pubblici del loro titolo hanno brindato, perché insomma hanno fatto un guadagno in un weekend di oltre il 60%, totalmente inaspettato, impresa impossibile persino per un derivato spericolatissimo. Però, ed è questa l'altra faccia della medaglia, ecco, però che cosa succede? Che in questo anno celebrativo del nostro 150esimo anniversario, alla fine non c'è neppure un italiano fra i primi 25 più ricchi del mondo. E queste sono delle storie, quella di Michele Ferrero, quella di Silvio Berlusconi, quella dei Bulgari, che in qualche modo, secondo me, spiegano un paese. Perché prendiamo il caso Bulgari. È rappresentativo di quella piccola media azienda che va in borsa, cresce enormemente, accumula ricchezza, però poi diventa vulnerabile nei confronti del mercato. Il limite di queste aziende medio piccole o medio grandi italiane è che alla fine il capitale raccolto sul mercato serve a far crescere, diciamo, il marchio mercato originario, ma non riesce a far costruire un impero diversificato globale. E dunque chi è che lo fa? Bernard Arnault, che appunto, come vi ho detto, è al quarto posto della classifica, che si è comprato Bulgari. Secondo me questo è un messaggio piuttosto importante, perché qualcuno tende a dirci che l'Italia non riesce a fare così bene sul mercato globale perché è un paese più piccolo, perché abbiamo poche risorse, perché abbiamo piccole medie aziende. Tutto vero, ma fino a un certo punto, perché uno come Warren Buffett, per esempio, non sarebbe mai salito al terzo posto mondiale con quei 50 miliardi di dollari di cui vi parlavo se avesse operato soltanto nel contesto di Omaha, Nebraska, paesino minuscolo sperduto nel Midwest. La sua visione era globale, così come globale è la visione di Carlos Slim e degli altri miliardari. Il problema, secondo me, è che l'Italia è chiusa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Steven Tyler, leader degli Aerosmith, sta per pubblicare la sua autobiografia, l'ha annunciato ieri, e ha detto che guardare indietro all'inizio della sua carriera e della sua vita è stata, sue parole, un'esperienza emozionante e catartica. E dunque dedichiamo agli Aerosmith la canzone del giorno, Sweet Emotions, emozioni dolci, una delle più vecchie canzoni del gruppo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.